voce. Federica Fracassi legge Sillabari di Goffredo Parise. Terza puntata. Cinema. Una domenica di gennaio del 1942, una signorina di una certa età, dai capelli crespi e rossicci raccolti a chignon, decise di andare al cinema. Era stata pochissime volte nella sua vita, e sempre per accompagnare i bambini ai cartoni animati. Era governante in una casa molto signorile, salvo una volta al film Salvator Mundi, che aveva visto insieme alla famiglia il giorno di Pasqua di un anno che non riusciva a ricordare. In casa il cinema non veniva considerato molto bene, ma quella domenica la signorina aveva deciso di andarci da sola e di non dirlo a nessuno. Era un giorno di pioggia. Il denso fumo giallo che usciva dalla ciminiera di una fabbrica dove si tostava orzo avvolse lei e il suo ombrello. Soli viaggiatori lungo un interminabile muro di mattoni. Tirava anche il vento. La signorina raggiunse il centro della città. A passi di tacco nel suo Loden si avvicinò all'entrata del cinema Edison. Si fermò a guardare le fotografie del film La città d'oro, uno dei primi film tedeschi a colori di quegli anni, e vide che al botteghino c'era una gran ressa di soldati e in generale di uomini. La signorina sapeva che quel film era considerato audace. Sapeva anche che quel cinematografo non era dei migliori, ma non voleva fare nessun caso a tutto questo. Era cresciuta in un collegio di suore povere, ma parlava perfettamente il tedesco ed era stata perfino interprete, anche se in quel momento il suo cuore batteva un poco più forte. Per non ficcarsi in mezzo a tutti quegli uomini, si fece forza e chiese al venditore di caramelle, un ragazzo ruminante liquirizia dalla bocca nera, di comprare il biglietto per lei. Lo ricompensò comprando 5 caramelle ed entrò nella sala. Subito capì che si trattava di un cinema popolare, che non c'erano quasi donne tra gli spettatori, salvo alcune bionde sparse e altre poche donne con i mariti. Trovò un posto, un brutto posto tra una combriccola di giovinastri, e fece per entrare nella fila, ma fu fermata da un tipo in divisa nera che la sorpassò dicendo «Occupato!». Poi si spense la luce. La signorina si trovò in piedi, addossata al muro, proprio sotto la fessura del proiettore da cui usciva un forte odore di acetone, e già questo odore inaspettato le diede un senso di mistero. Sullo schermo apparvero alcune immagini di alpini diretti non si sa dove, sfilate a Roma. Infine una diva che sorseggiava per propaganda un caffè chiamato Astragalo. La luce si riaccese e la signorina vagò sempre più a disagio alla ricerca di un posto. Aveva un cappello tirolese con una spazzola di tasso infilata nel nastro, finché una mano grossa, gonfia e fortissima l'afferrò per un braccio. Si volse impaurita ma aggressiva e vide un uomo anziano vestito di un mezzo paltò con larghi baveri rossi di pelliccia che le sorrise e le indicò un posto vicino al suo. La signorina disse «Grazie». Passò toccando con le sue le gambe dell'uomo, che le parvero durissime, e sedette. Sentì subito, dopo pochi istanti, una gran vampata di calore al volto. La sala era piena di fumo. Sbottonò il Loden, sciolse il nodo della sciarpa e proprio in quel momento si fece buio e incominciò il film a colori. La signorina si innamorò subito del volto della protagonista, una giovane tedesca nel ruolo di una contadina bella e pura, ma in seguito si rese conto che si trattava di un film molto più audace di quanto avesse mai potuto immaginare. Sentiva che prima o poi i protagonisti si sarebbero baciati, quando non fosse accaduto di peggio. Per un momento pensò di andarsene, ma dove? Poi si abbandonò a una certa spossatezza interiore, provocata dal calore del cinema e dalla durissima e inerte gamba dell'uomo al suo fianco, che avrebbe dovuto scavalcare. Inoltre il cuore le batteva forte. Anche una donna dietro di lei le batté un colpetto sulla spalla con dita che sapevano di mandarino e disse: «Scusi, potrebbe spostarsi un po' a sinistra?» La signorina si spostò a sinistra, ma dopo un po' ecco di nuovo le dita di mandarino e la voce della donna che chiedeva: «Forse sarebbe meglio che spostasse la testa un po' a destra». La signorina obbedì. «Così?» disse. E la donna rispose seccamente: «Così». Passò ancora del tempo e di nuovo la donna disse: «Senta, io non ci vedo». Un uomo che stava con la donna borbottò al suo fianco. La signorina non sapeva cosa fare. Le persone intorno dicevano: «Basta, silenzio!» E qui si intromise l'uomo rotondo in mezza pelliccia, si sollevò un poco con fatica e sbatté la sua dura gamba contro la poltrona di legno, sollevando un suono di strumento musicale. Ci fu un breve battibecco in un dialetto che la signorina non conosceva, ma udì la parola «educazione». Alla fine la donna disse a voce alta: «Come si fa a venire al cinema con un cappello così?» La signorina avvampò e con un gesto rapido e secco, come un uomo che saluta, si levò il cappello dalla testa. Lo chignon si sciolse e alcune ciocche ingarbugliate di capelli rossi e grigi si sparsero intorno alle orecchie. Poi abbassò il cappello, tenendolo sul grembo con le due mani, e riprese a guardare il film. Si baciavano. La bionda e pura contadina tedesca stava affondata in un letto con un grande piumino, le labbra gonfie e tremanti nel viso accaldato, la camicia da notte di canapa tesa dal respiro affannoso. La signorina beveva quelle immagini disperata e col cuore in gola. «Vado, non vado, resto, che vergogna, non emozionarti, sii superiore, che vergogna». Farfugliava la sua mente e qualcosa dovette anche sfuggire dalle labbra, perché l'uomo al suo fianco, che di tanto in tanto le gettava un'occhiata, disse piano: «Come? Come dice?» e le sorrise con una larga bocca di mangiatore. La signorina non rispose e aguzzò lo sguardo verso lo schermo, ma udì un rumore che veniva dall'uomo. Era come un battito dei colpetti che sorgevano dalla gamba inerte di lui e che si trasmisero alla sua come dei colpetti a una porta. Lanciò due o tre volte un rapidissimo sguardo a destra e in basso e vide che l'uomo teneva una delle sue due grosse mani appoggiata alla gamba e forse con una o più dita tamburellava. Terrorizzata, la signorina non capiva come una gamba potesse produrre un suono simile. L'uomo bussava ora senza tregua, con le nocche, proprio come si bussa forte a una porta. Immobile, fissò ancora lo sguardo sullo schermo dove si svolgeva la scena della seduzione ed ebbe un gemito. Un breve urlo, tanto forte le batteva il cuore. Un giorno molto azzurro, un uomo arrivò in una città di montagna nera di fumo e sepolta nella neve tra alti picchi. Camminando sotto i portici bassi, si fermò davanti a un negozio di souvenir. Vide una coppia di sposini tirolesi con su scritto «Zwei Herzen» e di colpo ricordò una bambina bionda e rosea, sempre vestita da tirolese, che incontrava per strada quando andava a scuola. Si vedevano e arrossivano. Una sera la incontrò in una stradina semideserta, vestita di un mantello di panno lenci rosso con un cappuccio. Nevicava. La prese per una mano e dopo un poco la baciò, prima su una guancia molto fredda, poi sulla bocca rossa, mentre lei lo guardava con gli occhi celesti aperti e immobili. «Come ti chiami?» domandò il ragazzo, e lei, sempre con occhi spalancati, con voce lentissima, rispose: «Cuore». Poi, non si videro più e passarono gli anni. Guardando le due bambole, l'uomo si chiese dove avrebbe potuto essere in quel momento, se era viva o magari no. Continuò a pensare a lei il pomeriggio e anche la sera, e gli venne una grande curiosità di rivederla. Con un certo imbarazzo telefonò ad amici d'infanzia dimenticati, spiegò quello che voleva, ma poiché non sapeva nulla di lei, solo il nome ma non il cognome, nessuno riusciva a ricordare nulla. Finalmente ne trovò uno con più memoria degli altri, un botanico con una barbetta riccia che sprofondò nel passato. Gli disse che era sposata con due bambini in una città poco lontana da quella in cui si trovava lui in quel momento, e scovò anche un numero di telefono. L'uomo chiamò quel numero e udì in risposta una voce di bambola meccanica. Era lei. Disse che ricordava tutto e desiderava rivederlo. «Hai ancora le trecce?» domandò l'uomo. «No, ho i capelli corti». «Corti come?» insistette l'uomo senza capire perché insisteva, e lei rispose: «Corti normali». L'uomo disse che la ricordava vestita da tirolese. Lei gli ricordò che erano passati tanti anni, che adesso era una signora di mezza età, che forse per lui sarebbe stata una delusione e che forse era cosa saggia non vedersi affatto. Poi aggiunse una frase che all'uomo parve molto bella: «Ad ogni modo, anche se tu non hai voglia di rivedermi, io invece ho molta voglia di rivederti». L'uomo le chiese il suo nome da sposata. La donna rise e disse: «È il nome di uno dei 7 nani, indovina?» L'uomo si schermì. Chi ricordava più i nomi dei 7 nani? Ma fu costretto, con lei che suggeriva, a dirli tutti finché arrivò al nome: Dotto. La donna fece un piccolo strillo al telefono. «E che lavoro fa il signor Dotto?» «È rappresentante di generi alimentari». Ci fu una lunga pausa. Poi, con l'impressione di avere molte cose da dirsi, si salutarono. «Forse è un po' pazza o soltanto stupida», si disse l'uomo, ma senza volerlo continuò a pensare a lei. Quella notte la sognò come la ricordava, vestita da tirolese, con gli occhi di porcellana tra le lunghe ciglia nere coperte di neve, completamente immobile e sorridente. Il giorno dopo le telefonò ancora, ma non la trovò in casa. Parlò con un ragazzo con una voce severa che aveva intuito qualcosa girare nell'aria di quell'inverno. Alle 5 del pomeriggio le aveva detto che lo avrebbe sempre trovato a quell'ora, puntualissima, e gli udì la lenta voce di lei. Stettero al telefono per un po'. Lei disse che era stata molto innamorata di lui. Allora aveva 12 anni. Lui si convinse e la convinse della stessa cosa. «Lo sai ancora?» domandò l'uomo arrossendo. Non era tipo da avventure del genere, e la voce di lei, dopo una lunga pausa, disse: «Sono sposata. Come potrei amare due uomini allo stesso tempo?» Nella sua voce c'era grande stupore, ma nessun giudizio, ed egli non seppe cosa rispondere. Le disse che sarebbe passato per la città dove lei abitava il giorno dopo, per qualche ora. Fissarono un appuntamento davanti al Duomo, ed egli le chiese le sue misure perché voleva portarle un regalo. 42, 44, rispose lei con felicità, ma non ti devi disturbare. L'uomo uscì tra la neve, stupido e leggero, andò al negozio di souvenir, comprò un vestito tirolese, la misura non era proprio certa, e si mise in viaggio. Durante il viaggio ricordò quasi tutto il film Biancaneve e i 7 nani, aiutato anche dalle foreste ai lati della strada, e precipitò senza accorgersene in quello stato di realtà che precede e accompagna sempre i grandi avvenimenti della vita. Giunto davanti al Duomo, la vide subito tra i passanti. Gli parve uguale, la stessa bambina lenta e attonita di 30 anni prima. «Ciao, cuore», disse col cuore in gola. «Sei identica». E la donna, salendo in automobile con un sorriso e quella sua voce lentissima e dolce, disse: «Ciao, anche tu sei uguale». Girarono nella campagna e lungo un fiume tra la boscaglia per 2 ore. Parlarono, soprattutto lei, con molta intelligenza e candore, come nelle favole, e con un linguaggio elementare e purissimo. Quando si addentrarono nella boscaglia dove lei volle provare l'abito tirolese, così vestita, disse: «Oh, che bosco nero!» e lo prese per mano. Quando uscirono, indicò il frumento basso nei campi e disse: «L'erba è già verde». Anche il suo volto rotondo e roseo, con i grandi occhi celesti spalancati e la bocca rotonda e rosa, erano elementari e purissimi, e l'uomo la baciò. Come allora, lei stette immobile, con gli occhi aperti a guardarlo. Durante il viaggio di ritorno l'uomo le chiese: «Ieri, quando parlavi con me al telefono, i tuoi figli sentivano quello che dicevi?» Lei si fece seria. «Sì, c'è anche stata una discussione con mio marito. Mio marito è un orso, mi ha detto. Che cosa vuole?» L'uomo notò che il volto di lei era un poco imbronciato e distratto, come quello dei bambini quando non vogliono parlare di una cosa o stanno per dire una bugia. «E tu cosa gli hai risposto?» «Niente, ho detto che non volevi niente». L'uomo insistette per sapere qualcosa di più, ma lei era distratta e guardava davanti a sé. Allora cambiò discorso. Le chiese se aveva un'automobile. La donna rise e disse: «Mio marito non vuole che impari a guidare, dice che sono svanita». «E cosa fai tutto il giorno?» «Sto in casa, mio marito non vuole che esca perché dice che non so nemmeno attraversare le strade, figurati. Esco solo al mattino per fare la spesa, ma mi accompagna il fattorino». «Non hai una donna?» «No». L'uomo aveva tenuto per tutto il viaggio la mano di lei nella sua. Una volta la baciò e sentì il profumo di un sapone modesto e molto diffuso. Poi la baciò su una guancia e sentì il profumo di un talco per bambini, anche quello molto noto. «Sono stata molto felice di rivederti», disse lei prendendo con cura il pacchetto del vestito tirolese. «E vorrei vederti sempre». Dopo questa frase, che aveva pronunciata con voce tranquilla e felice, aggiunse: «Anche tu?» L'uomo fece cenno di sì col capo, e mentre la donna uscì dall'automobile udì che diceva: «Ti telefonerò sempre io, alle 5». Da quel giorno si videro sempre più spesso, nei modi e nelle ore in cui si vedono gli amanti. L'uomo non chiedeva mai nulla del marito e della famiglia. Lei ne parlava raramente. Quando ne parlava, il suo volto si faceva imbronciato e distratto. La loro conoscenza non andò avanti granché. Durante i loro incontri l'uomo parlava poco, immerso nella stupefazione in cui lei lo avvolgeva con le sue parole e le sue esclamazioni, ma anche con le sue carezze e i suoi occhi celesti aperti nei baci e chiusi dalle lunghe ciglia nere nel sonno. Qualche volta l'uomo era inquieto, ma non esprimeva a lei la sua inquietudine, perché non avrebbe saputo come. Allora diceva come tra sé: «Sei uguale, identica». E lei rispondeva: «Anche tu». Ma l'uomo invece sapeva molto bene che tutto ciò che è umano passa e scompare, e forse era questa la ragione della sua inquietudine. Si videro per 4 anni, durante i quali sembrò loro di rimanere giovani e felici. Poi un bel giorno lei non venne più ed egli non riuscì a sapere più nulla di lei. Federica Fracassi ha letto Sillabari di Goffredo Parise, a cura di Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.